Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se Renzi facesse una politica di destra, come sarebbe compatibile con D'Alema e compagni, con Bersani e compagni, con Cuperlo e compagni? Che si ribellino, ma evidentemente ha rottamato anche loro. Quindi non è un problema nostro. Semmai per noi il problema è dargli o non dargli la tessera di Forza Italia a Renzi. Ci stiamo pensando. Avete capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Brunetta di Forza Italia, cioè che si stanno pensando se dare una tessera al partito di Forza Italia a Renzi, questo per rispondere, gli dice ma non è che Renzi fa una politica di destra. Insomma, questo è un lungo dibattito, si vedrà poi l'evolversi del percorso di Renzi. Intanto c'è qualcosa di molto atteso, doveva arrivare, qui si passa di minuto, di ora in ora, questa lettera famosa dell'Unione Europea che dovrebbe valutare la legge di stabilità, doveva arrivare al governo entro oggi, per il momento, che ore sono? Le 21.03, 12 secondi, non sembra che sia pervenuta. Altra notizia è, rimanendo legati a Brunetta, che Berlusconi, da domani, signor Berlusconi, che sapete in affidamento in prova ai servizi sociali per un anno dopo la condanna definitiva per il caso Mediaset, potrà chiedere la liberazione anticipata. Tra 24 ore infatti saranno maturati i termini dei 6 mesi dopo i quali il leader di Forza Italia potrà presentare ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano l'istanza per ottenere una riduzione di 45 giorni del suo percorso di rieducazione presso l'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove assiste gli anziani ricoverati. Ci sono molte notizie, molte cose che approfondirò man mano con gli ospiti. Sicuramente inizieremo dal Canada, perché c'è stato un attacco, non si parla ancora di attentato terroristico, insomma si cercherà di capire e magari cerchiamo di raggiungere anche l'ambasciatore italiano in Canada. Per le vostre opinioni c'è sempre il numero per i messaggi, per gli sms, che è il 349-238-6666, 349-238-6666, e la pagina Facebook di Effetto Notte, naturalmente, non si muove, è sempre lì. Canada, terrore, Ottawa spari in Parlamento, ucciso un soldato, in azione forse un comando, e il primo ministro Harper dice un attacco spregevole. Sicilia, Crocetta azzera la giunta, firmati i decreti per la revoca. Legge di stabilità, a Roma si attende la lettera dell'Unione Europea e Renzi dice basta austerità, con la nuova commissione si volta pagina. Bonus alle neomamme andrà solo alle famiglie con redditi fino a 30.000 euro. Fisco, sequestrati beni a Fabio Cannavaro per frode fiscale per 900.000 euro, indagini su società per noleggio di barche. Ebola, la ministra Lorenzin annuncia pronto il farmaco blocca emorragia. Vittime del nazismo, la consulta dice sì ai risarcimenti dovuti da parte della Germania. Meteo allerta per il vento forte, da domani brusco calo delle temperature. Per il calcio, per la Champions, stasera tocca alla Juventus e Allegri avverte con l'Olympiakos è vietato sbagliare. E partiamo quindi da quello che è successo in Canada, anche se la situazione non è ancora chiarissima, poi come dicevo cercheremo di raggiungere l'ambasciatore italiano in Canada per avere maggiori dettagli. Un gruppo di uomini armati comunque ha aperto il fuoco oggi vicino al National War Memorial, il monumento ai caduti, ferendo a morte un soldato che si trovava di guardia insieme a un suo compagno, si è poi introdotto all'interno del Parlamento. Un attentatore è stato ucciso dalle forze dell'ordine durante uno scontro a fuoco all'interno dell'edificio in cui sarebbero stati esplosi almeno una trentina di colpi. Gli altri uomini di questo comando, 2 o 3 persone, sono riusciti a fuggire. Tutti gli edifici in cui si è sparato fanno parte del complesso governativo noto come Parliament Hill. Ancora, vi dicevo, non è chiaro se si tratta di un atto di terrorismo. La politica italiana adesso. Renzi oggi è intervenuto alle Camere in vista del Consiglio europeo che si terrà domani e dopodomani. Intanto la legge di stabilità è sotto esame al Quirinale e si attende questa benedetta lettera in arrivo da Bruxelles. Proprio oggi il Parlamento europeo ha dato il via libera alla nuova commissione guidata da Juncker. Per l'Europa si tratta dell'ultima opportunità per riavvicinare i cittadini e l'opinione pubblica alle istituzioni. I prossimi 5 anni saranno essenziali. Così ha spiegato il neopresidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel suo discorso all'Europarlamento. Massima priorità al pacchetto di investimenti da 300 miliardi di euro voluto fortemente da Italia e Francia. Ora che ho il mandato effettivo, da stasera mi metto al lavoro. Il piano di investimenti sarà presentato prima di Natale, ha detto Juncker, ma non potrà essere finanziato con il debito. Il me semble évident, comme nous ne pouvons pas financer le paquet d'investissement par un recours à des déficits élargis. È evidente che non possiamo finanziare il pacchetto di investimento con il deficit e il debito. Il settore privato deve essere fortemente coinvolto nello sforzo globale, ha spiegato Juncker, ribadendo ancora una volta sì alla flessibilità ma usando i margini previsti. Bisogna rispettare le regole del patto di stabilità. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Europa volta pagina nella guida delle sue istituzioni. Matteo Renzi guarda così con favore alla nuova Commissione europea guida Juncker. Ci sono tutte le condizioni, spiega il Premier in Parlamento, perché cambiate le poltrone, si possano cambiare a Bruxelles anche le politiche per un'Europa non burocratica in cui l'Italia sta a testa alta. La preoccupazione che esisteva circa il passaggio di consegne pare essere finalmente fugata e dunque l'Europa adesso volta pagina nella guida delle sue istituzioni. Renzi difende quindi la legge di stabilità e sull'eventuale lettera dall'Unione Europea spiega è naturale, non basta questa per parlare di bocciatura. Basta una mezza dichiarazione del portavoce, dell'aiutante, del sottosegretario della Commissione per avere i titoloni sui giornali, l'Europa avverte. Quanto ai contenuti all'esame del Quirinale e della Ragioneria dello Stato, vi è la conferma del cosiddetto bonus mamme. Sarà erogato mensilmente solo alle famiglie il cui reddito ISEE annuale non superi i 36.000 euro. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E occupiamoci adesso di giustizia. Sul processo civile si va verso la fiducia. Per sbloccare il voto sulla Consulta si studiano nuove alleanze. Dopo le 20 fumate nere da parte del Parlamento in seduta comune, potrebbe ora passare per il Movimento 5 Stelle la soluzione allo stallo sulla Consulta. Ai grillini il Premier Renzi avrebbe infatti offerto il posto vacante al CSM in cambio dei loro voti per l'elezione dei giudici costituzionali mancanti, per i quali l'idea sarebbe quella di indicare due tecnici di alto profilo, meglio se donne, superando quindi la candidatura di Violante. La proposta non sembra dispiacere ai pentastellati. Se verranno fatti nomi degni, li voteremo. Non ci interessano poltrone, ma persone valide ed indipendenti nelle istituzioni di garanzia, fanno sapere i grillini Cecconi e Toninelli. L'apertura ai 5 Stelle viene accolta invece con qualche fastidio da Forza Italia, i cui voti restano indispensabili. La prossima settimana si potrà arrivare a proposte unitarie, ma niente nomi calati dall'alto, avverte Romani. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E Berlusconi intanto torna all'attacco. Oggi ha presieduto una riunione dei senatori di Forza Italia. Sto in campo per tornare a vincere. Non potete pensare che dopo tutto quello che ho fatto nella vita possa uscire di scena così. E quanto ha detto Silvio Berlusconi ai senatori azzurri riuniti nel pomeriggio a Palazzo Giustiniani. È falso che io voglia chiudere Forza Italia, poi ribadito l'ex premier garantendo anzi un rilancio del partito, fondendo, ha spiegato, nel movimento i club e interessandoci al sociale. Quanto all'Italicum, secondo Berlusconi, il premio deve rimanere la coalizione. Pessima, a suo avviso, l'idea di darlo alla lista. Lo ha spiegato ai giornalisti al termine dell'incontro il capogruppo di Forza Italia al Senato, Paolo Romani. Siamo assolutamente contrari alla proposta che ha fatto Renzi per quanto riguarda il premio di maggioranza alla lista. Rimaniamo convinti che l'Italicum che è uscito dalla Camera sia quello che debba essere approvato al Senato. Romani, dopo aver ribadito che per Forza Italia quello di Renzi resta un governo delle tasse, ha escluso sia in programma un incontro tra il Premier e Berlusconi, i quali, dopo senatore, domani incontrerà i deputati di Forza Italia. Domani sarà anche il giorno a partire dal quale il Cavaliere potrà chiedere la liberazione anticipata. Saranno infatti maturati i termini di 6 mesi dopo i quali Berlusconi potrà presentare al giudice l'istanza per ottenere una riduzione di 45 giorni del suo percorso di rieducazione presso l'Istituto per Anziani di Cesano Boscone. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi cercheremo di raggiungere un senatore di Forza Italia per farci dire direttamente dalla sua viva voce che cosa si sono detti in particolare oggi. Però passiamo alla Sicilia, perché è stata azzerata la giunta della regione, lo ha comunicato il presidente della regione Sicilia Rosario Crocetto, appena firmato, ha detto un'oretta fa, i decreti di revoca degli assessori. Parliamo di Ebola, violenti scontri in Sierra Leone e nei paesi più colpiti dall'epidemia, mercati vuoti e prezzi sempre più alti. Sono almeno due le vittime delle violenze esplose a Koidù nell'est della Sierra Leone. Gli scontri sono scoppiati dopo che un gruppo di giovani si è opposto a un prelievo di sangue su una donna di 90 anni che doveva essere sottoposta al test sul virus Ebola. Nei paesi più colpiti dall'epidemia sono sempre più numerosi gli ospedali chiusi o abbandonati da pazienti. pazienti e personale medico ed è scattato l'allarme cibo. Sempre più scarse le scorte alimentari mentre i prezzi stanno progressivamente aumentando. Buone notizie arrivano invece sul fronte dei casi registrati al di fuori dell'Africa. Ashoka Mukpo, il cameraman dell'emittente americana NBC che aveva contratto il virus in Liberia, è guarito. L'annuncio del freelance arriva dopo la conferma della guarigione di Teresa Romero, l'infermiera spagnola di 44 anni, prima contagiata al di fuori dell'Africa, e della dottoressa norvegese di Medici Senza Frontiere, Silje Michelsen, che aveva contratto il virus in Sierra Leone. Miriam Corgiata, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo in Italia la ministra della Salute Lorenzin ha annunciato l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze ha terminato la sperimentazione di fase 1 per un farmaco chiamato blocca emorragia, che può essere efficace contro i sintomi di virus Ebola. Ed Emergency ne ha richiesto 1000 dosi che stanno per essere inviate in Sierra Leone. L'ho detto ospite di una puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Per frode fiscale sono stati sequestrati beni all'ex nazionale Fabio Cannavaro. A un valore di 900.000 euro il sequestro di beni effettuato questa mattina nell'ambito di un'inchiesta su una maxi frode fiscale realizzata tramite una società di noleggio di imbarcazioni lussuose gestita dall'ex calciatore Fabio Cannavaro e dalla moglie Daniela Arenoso. La Polizia Tributaria di Napoli ha eseguito il provvedimento richiesto dalla Procura partenopea sulla base di indagini scaturite dalla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate che aveva scoperto una simulazione di attività d'impresa. Tre imbarcazioni erano utilizzate per fini personali e non per noleggio. Tra il 2005 e il 2010 è maturata un'evasione fiscale tra IRES, IRAP e IVA di oltre 1 milione di euro. Dagli approfondimenti di indagine, secondo quanto comunica la Procura, è poi emerso il coinvolgimento diretto di Cannavaro quale titolare e amministratore della società. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E al via Reggio Calabria il processo a carico, tra gli altri, dell'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola, accusato di aver favorito la latitanza di Matacena. Nella lista dei testimoni c'è anche l'ex presidente del Libano Gemayel, c'è un funzionario del Banco di Napoli alla Camera, l'ex presidente della Confcommercio e diversi trade union tra Italia e Libano. Sono più di 220 le persone chiamate dalla difesa di Claudio Scajola a deporre nel processo sulla latitanza di Amedeo Matacena, ex deputato di Forza Italia. Volto teso per l'ex ministro, arrivato a Reggio Calabria da Imperia, dove è ancora agli arresti domiciliari. Mentre assiste all'apertura del dibattimento, da un'altra aula dello stesso palazzo riceve una notizia positiva per lui. Anche il riesame dopo il GIP conferma infatti che non può essergli contestata l'aggravante mafiosa, anche se Matacena è considerato vicino all'andrangheta, e boccia il ricorso della DDA per carenza di interesse. Non risponde l'ex ministro forzista alle domande sui suoi attuali rapporti con Claudia Rizzo, Lady Matacena. Di cosa parliamo, taglia corto. In un interrogatorio depositato al riesame aveva escluso ogni affare. Io non ho mai fatto affari con nessuno perché non sono capace. L'ultima volta che ho comprato una casa ho cambiato un casino. Cosa vuol dire che io affari non mi fate con nessuno? Il processo riprende il 6 novembre. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso una notizia che riguarda le vittime del nazismo. La Consulta, la Corte Costituzionale, ha dichiarato incostituzionali le norme che impediscono di agire in giudizio contro la Germania e quindi per le vittime italiane del nazismo di ottenere i risarcimenti. Il principio dell'immunità degli stati dalla giurisdizione civile degli altri stati non opera per crimini di guerra e contro l'umanità, così ha stabilito la Corte. E oggi, per quanto riguarda il meteo, vi sarete accorti, abbiamo avuto un assaggio d'inverno. Italia che è battuta dal vento, che in Sardegna ha raggiunto addirittura 120 km orari. Già sono calate le temperature al nord, domani sarà un calo generalizzato e più tardi sentiremo quali sono le previsioni e magari cercheremo anche di capire se è possibile che tipo d'inverno sarà quello che ci aspetta. Intanto, che tipo di partita sarà questa dopo la disfatta ieri della Roma? Una roba incredibile, un risultato quasi da pallacanestro. Dario Ricci, tocca alla Juventus questa sera in Champions. Sì, Roberta, siamo al trentesimo di gioco al Pireo, dove si affrontano Olympiacos e Juventus. Beh, diciamo il risultato decisamente più sobrio, siamo ancora sullo 0-0, ma una partita molto aperta, con i greci già in un paio d'occasioni pericolosissimi dalle parti di Buffon. Al 27esimo bel sinistro in diagonale di Dominguez, fuori proprio di pochissimo. La Juventus non sta a guardare. Al 12esimo Morata di testa per Tevez, che tocca verso la porta greca, ma Elabolimi arriva e salva sulla linea. Al 20° la Juventus trova effettivamente il gol ancora con Tevez di testa, ma annullato per un giusto fuorigioco. Insomma, siamo ancora sullo 0-0, così come 0-0 anche la sfida tra Malmo e Atletico Madrid, sempre valida per il gruppo A, tra Atletico Madrid e Malmo, anzi a Madrid, scusate, e quindi sono quattro squadre appaiate al momento a 4 punti, un gruppo bloccato, direi. Faccio uno squillo se ci sono novità, se no comunque ci aggiorniamo più tardi su questa partita. Intanto invece diamo aggiornamenti a chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo qui, mentre cerchiamo di raggiungere il Canada per capire come stanno le cose. Comunque è, diciamo, la notizia più grossa che è stata la ribalta della cronaca poco fa, insomma, nel tardo pomeriggio. Un incubo terrorismo in Canada, il Parlamento sotto attacco, un comando in azione, uccisi un soldato e un assalitore. E poi, per quanto riguarda le altre notizie, per quanto riguarda la manovra, bonus per le neomamme solo a redditi più bassi, dovrebbero essere intorno ai 30.000 euro. E ok, c'è stata la bollinatura, la legge di stabilità della ragioneria, rinviato l'incontro con le regioni, c'è ancora attesa per questa lettera dell'Unione Europea. E poi Renzi dice l'Europa abbia più coraggio, resterà Cenerentola. La Commissione Juncker al via, parte oggi il nuovo esecutivo. Vertice del PD sull'Italicum, stop di Berlusconi al premio di lista, riforma della giustizia civile, il governo è pronto alla fiducia. Abbiamo detto che l'Italia è sferzata dal vento, 120 km all'ora in Sardegna, alluvione a Genova, spuntano altri premi tra l'altro a dirigenti indagati a Genova. Sapete questo scandalo dei premi a dirigenti che sono rientrati in questa inchiesta per alluvione colposa. E poi addio a Ben Bradley, fu il direttore del caso Watergate. Su Washington Post affondò Nixon e Obama dice era un reporter vero. E adesso parliamo allora di quello che è successo, sta succedendo in Canada, perché la situazione è ancora in divenire, forse, speriamo che l'emergenza almeno sia stata fermata, circoscritta. Palazzi del potere sono stati sotto attacco nel paese, ad Ottawa, che è la capitale del Canada. Un gruppo di uomini armati ha ferito oggi a morte un soldato che era vicino al National Memorial War, il memoriale per i caduti, e si è introdotto in Parlamento. All'interno dell'edificio sono stati avvertiti diversi colpi, uno dei membri del comando è stato ucciso, un altro o altri due sono riusciti a fuggire, e in città mi pare sia stato proclamato il coprifuoco, ma chiedo conferma all'ambasciatore italiano in Canada, Gianlorenzo Cornado. Buonasera. Buonasera, buonasera dottoressa. E grazie, ecco, di essere in collegamento. Lei dove si trova in questo momento? Io mi trovo in ambasciata in questo momento. Ho lasciato il centro, il palazzo di congressi di Ottawa, dove c'era un seminario sull'Artico. Ci avevano chiesto di non lasciare l'edificio, era stato proibito anzi lasciare l'edificio, così come è stato proibito per alcune ore di lasciare l'edificio in cui è situata l'ambasciata d'Italia. Non è un coprifuoco, però c'è una zona del centro della città attorno al Parlamento che è chiusa al traffico automobilistico e pedonale, e l'accesso agli edifici sia privati sia pubblici è regolamentato, in molti casi è chiuso. Senta, in questo momento intanto non si capisce ancora se si tratta di un attacco terroristico o di che natura sia questo attacco di oggi. Guardi, dalle notizie stampa, perché le uniche fonti che abbiamo sono notizie stampa, ha parlato di un uomo armato con un foulard a connotazioni islamiche. Questo è l'unico collegamento che ci può essere, è questo, ma la polizia non ha confermato che si sia trattato di un attacco terroristico di matrice islamica. Al momento non c'è ancora questa conferma. È in corso una bonifica all'interno del Parlamento ad opera delle forze di polizia, della Polizia Federale Canadese, per essere certi che non vi si nasconda alcun altro terrorista. Questa adesso l'azione che stanno facendo. La polizia sconsiglia di avvicinarsi al centro della città. Questo hanno fatto una conferenza stampa un'oretta fa i responsabili delle forze di polizia canadesi, e quindi non si può parlare di coprifuoco, non è un coprifuoco, però indubbiamente c'è un grosso allarme in città e l'indicazione è quella di star lontani dal centro di Ottawa. Mi pare che si stiano prendendo anche misure nelle basi militari, immagino, con una cosa del genere, quando vengono attaccati i palazzi delle istituzioni e così, Cornado. Sono state chiuse le basi militari, chiuse al pubblico, e il personale militare è stato invitato a non uscire in uniforme, a meno che non sia chiamato per dei compiti di istituto. Senta, il Canada in quali missioni è impegnato, in quali fronti di guerra? Beh, è impegnato in Iraq con sei aerei F-18 e degli istruttori anche, sei aerei F-18 che sono distanze in Kuwait e opereranno da lì, sul territorio dell'Iraq dove è che è stato invaso dall'ISIS. Quindi nella lotta contro l'ISIS o l'ISIS, in questo è impegnato, esatto, il Canada in questo momento. Sì. Potrebbe essere legato a questo impegno? No, onestamente non lo posso dire, non voglio fare speculazioni di questo genere. Quello che però ricordiamo tutti è che a settembre era uscito un comunicato proprio dell'ISIS che invitava tutti i musulmani ad uccidere con ogni mezzo americani, canadesi ed europei. Questo era uscito a settembre, questo è di dominio pubblico. Prima di ora, cosa si ricorda di recente di cose di questo tipo in Canada, Cornado? Ieri c'è stato un episodio apparentemente marginale, ma che comunque aveva destato molto allarme presso l'opinione pubblica canadese, un canadese convertitosi all'Islam che ha investito di proposito con la sua autovettura due soldati canadesi, uno dei quali è rimasto ucciso in questa aggressione. Non è un vero e proprio attentato terroristico, ma è un fanatico che ha raccolto l'appello dell'ISIS. E quindi evidentemente... In passato erano stati sventati invece attacchi terroristici di Al-Qaeda, ma prima ancora che iniziasse la fase preparatoria, in più di un'occasione, se non ricordo male, nel 2010, e anche nel 2013 era stata scoperta la preparazione di un attentato al treno Toronto-New York. Comunque lei, ambasciatore Cornado, è dentro l'ambasciata e protetto in questo momento? Insomma, sono dentro l'ambasciata, protetto assolutamente, perché nessuno può accedere all'edificio dell'ambasciata, sono qui con tutti i miei collaboratori. E seguiamo la situazione, ascoltiamo i notiziari e vediamo che indicazioni verranno date dalle autorità di polizia e dalle autorità canadesi. Abbiamo ovviamente allertato il Ministero degli Esteri canadese e chiesto che vengano adottate misure di protezione non solo all'ambasciata ma anche ai consolati, all'ufficio ICE e all'ENIT, ovvero a tutte le istituzioni italiane in Canada. Ambasciatore Cornado, io la ringrazio, la saluto, vi auguro che tutto evolva al meglio, comunque ci terremo aggiornati. Senz'altro. La grazie molto. Buonasera, grazie a lei, gli ascoltatori. Un saluto dall'Italia. Invece parliamo di questioni più strettamente italiane con il nostro Alberto Rioli e vedo sì che cosa succede. Ah, c'è Dario Ricci, perché scusa Alberto, si vede che c'è stato un gol o sette gol tutti insieme come ieri, Dario? Sì, me l'avevi detto, se succede qualcosa fai uno squillo, io obbedisco e porto cattive notizie per i tifosi bianconeri, perché la Juventus è sotto al Pireo contro l'Olympiacos, siamo al 39esimo di gioco, al 35esimo Greci in vantaggio con la rete di Casami, c'è stato un pallone perso da Pirlo a centrocampo, Mitroglou ne ha approfittato e poi appoggiato per Casami che con un sinistro sul primo palo non ha lasciato scampo a Buffon. Olympiacos 1, Juventus 0, nell'altra gara del girone ancora 0-0 tra Atletico Madrid e Malmo. Grazie Dario che ha suonato il campanello, abbiamo visto Juventus sotto di un gol, questa Champions per il momento sta andando benissimo per le squadre italiane. Come sta andando invece la squadra italiana nel senso di governo e di paese? Lo chiedo ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Stavamo attendendo questa lettera che doveva arrivare in giornata, dovevamo discuterne io e te Alberto, invece discutiamo così, diciamo così, virtualmente di quello che potrebbe essere. Ciao e buonasera a tutti. Ciao Alberto. Sì, semplicemente oggi c'è stata un conference call dei direttori generali del Ministero con gli omologhi della Commissione Affari Economici del Dipartimento e sono stati chiesti una serie di chiarimenti sul testo della legge di stabilità che il governo italiano naturalmente ha dato. Domani dovrebbe essere divulgata questa lettera in cui sono previsti alcuni rilievi, alcune obiezioni che ci vengono mosse da Bruxelles, ma insomma l'intonazione che è stata accreditata almeno oggi non è punitiva o censoria. Quindi richiesta di chiarezza e forse soprattutto sulle coperture possibili? Esattamente, il problema è proprio quello, perché è chiaro che l'operazione che ha fatto il governo italiano di fare una manovra in deficit per 11 miliardi è proprio un po' in controtendenza rispetto a quello che l'Europa ci chiedeva una correzione di mezzo punto di PIL del deficit, cioè dello 0,5%, e noi l'abbiamo ridotta allo 0,1%, però mantenendoci un tesoretto di riserve proprio per fronteggiare eventuali obiezioni dello 0,2%, vale a dire 3,4 miliardi. Insomma, non voglio ubriacare chi ci ascolta di cifre, ma insomma un pochino siamo pronti a far fronte alle riserve che ci verranno mosse da Bruxelles, ma indubbiamente il grosso della strategia di politica economica del governo dovrà essere difeso e dovrà essere mantenuto, altrimenti la manovra espansiva non si potrà fare. Ma siccome questo non mi sembra proprio che sia l'intendimento della nuova commissione, che oggi stesso ha avuto la fiducia, che è stata presentata da Juncker, il quale ha centrato tutto il suo discorso proprio nel dire che faremo un piano ambizioso di 300 miliardi per far crescere l'economia, sarebbe in contraddizione. Quindi ecco, probabilmente c'è da sperare favorevolmente, diciamo, cautamente favorevole. A proposito di questa lettera che insomma è attesa, e Renzi ha detto i media ci insomma cercano un po' di enfatizzare, diventa una cosa quasi minacciosa, sentiamo che cosa ha detto lui rassicurando su questa lettera. Emblematico è il genere letterario della lettera, che anche in queste ore sta suscitando l'entusiasmo e la passione di una parte di noi e anche di una parte dei media. È naturale che per le nuove procedure, quando tu mandi la legge di stabilità che il Parlamento inizia a discutere, che ancora non è all'esame neanche delle commissioni, l'Europa, intesa come commissione, verifichi i punti sui quali ritiene di dover individuare eventuali scostamenti o contraddizioni. Ed è naturale che questo accada con l'apertura di un percorso che poi prevede il passaggio all'interno della discussione della Commissione, che successivamente viene portato all'attenzione del Consiglio, che nel frattempo viene modificato all'interno del Parlamento e che a distanza di mesi può portare, nel caso di una presenza di scostamento significativo, all'apertura di una o più procedure. Questo è un percorso che vale per tutti. E adesso invece Alberto Rioli, faccio sentire che cosa ha, come ha commentato la legge di stabilità Brunetta di Forza Italia, no? Che rispetto a Berlusconi, che è quello che ha fatto il patto del Nazareno, anche se oggi ha detto diverse cose anche ieri sulla legge di stabilità, sulla legge elettorale eccetera, Brunetta è quello che fa la parte, diciamo, tra virgolette, del cattivo, sentiamo. Ma io ho visto un vuoto cosmico, retorica, luoghi comuni, frasi fatte. Nessun impegno, nessuna data, nessun contenuto, aspirazioni, auspici, ripeto, retorica allo stato puro che nasconde il nulla della politica economica di Renzi, della politica estera di Renzi, della politica di riforme di Renzi e il suo non contare nulla in Europa nonostante il semestre di presidenza. Che dice Alberto di questo commento di Brunetta, il vuoto cosmico insomma in questa legge di stabilità di Renzi e nella sua politica estera, nella sua politica in genere? Beh, insomma, vabbè, c'è un po' di propaganda, è un po' tanta, diciamo la verità. Indubbiamente la manovra qualcosa ce l'ha, prevede la decontribuzione per i contratti a tempo indeterminato, prevede il taglio dell'IRAP che storicamente è sempre stata una cosa molto complessa, ci sono una serie di nuove elargizioni, diciamo così, dalla conferma degli 80 euro alla questione del bonus bebè, insomma ci sono un po' di cose. A questo proposito, scusa Alberto, del bonus bebè, è stato chiarito che non è per le mamme o le famiglie che arrivano sino a 90.000 euro l'anno, ma a 30.000, è stata abbassata adesso la soglia, no? Mi sì, pare esatto, che ci sia stata questa correzione. L'altra correzione, dimmi tu se è stata una correzione o se avevamo capito male tutti noi, questa del rinvio del pagamento delle pensioni al 10 del mese anziché al primo del mese. Non so se è il tipo il boomerang che tu lanci e poi ti torna in fronte e quindi decidi di non lanciarlo più, nel senso che... Ma diciamo la verità, la tecnica del cosiddetto ballon d'essai è stata usata varie volte nella preparazione di questi documenti della manovra e anche questa volta con questa questione dell'assegno, che peraltro è solo per chi ha il doppio assegno. Oggi è stato chiarito, no? Ridotta, che è solo per chi ha il doppio assegno che ha più pensioni. E quindi chiaramente a quel punto si è molto depotenziata la platea degli eventuali interessati a questa manovra, che peraltro aveva fatto insorgere chiaramente sindacati e non solo, insomma era particolarmente abrasiva, diciamo così, per un ceto già particolarmente colpito. Quindi su questo piano si può stare tranquilli. Sì. Naturalmente poi seguiremo quando arriverà questa lettera, magari ci sentiamo domani o nei prossimi giorni. Alberto Rioli, buon lavoro. Grazie a voi, buona grazie, sera. Ciao. Ci sono sempre per voi, se volete commentare le tante notizie anche di questa sera, il 349-238-6666 per gli sms oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che lì in qualsiasi momento, anche quando non c'è la trasmissione, potete fare le vostre riflessioni. Tra poco. Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Eccomi qui, Roberto Giordano, sempre con voi. Leggevo anche i vostri messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore che scrive: ma ha sentito la fuffa cosmica di Mr. Slogan alle Camere? Quindi un po' cita Brunetta, che ha parlato di vuoto cosmico rispetto a quello che ha detto Renzi alle Camere, e Mr. Slogan, secondo questo ascoltatore, sarebbe Renzi. Un pochino abbiamo fatto sentire, poi naturalmente agli elettori l'ardua sentenza. Adesso vi sintetizzo le notizie e poi approfondiamo altri temi. Partiamo dal Canada, è stato un atto di terrorismo, forse a Ottawa, ancora non è chiaro, spari in Parlamento, ucciso un soldato, in azione forse un comando. Il primo ministro Harper ha parlato di un attacco spregevole, ho visto adesso un'agenzia di una dichiarazione di Obama che dice sono attacchi oltraggiosi ai militari. Abbiamo avuto poco fa qui l'ambasciatore italiano in Canada, che ha detto che forse potrebbe esserci forse un collegamento con l'impegno del Canada in Iraq e questo attacco. Sicilia, Crocetta azzera la giunta, firmati i decreti per la revoca. La legge di stabilità, a Roma si attende ancora la lettera dell'Unione Europea e Renzi dice basta austerità con la nuova commissione, si volta pagina. Bonus alle neomamme andrà solo alle famiglie con redditi sino a 30.000 euro. E poi Ebola, la ministra Lorenzin annuncia pronto il farmaco blocca emorragia. Meteo allerta per il vento forte, da domani brusco calo delle temperature. Per il calcio dovrebbe essere ancora la Juventus sotto di 1 in Champions con l'Olympiakos. Sì, mi confermano di sì. Europa 24 notte. Quindi parlavamo prima di questa lettera che attendiamo, che attende il governo italiano da parte dell'Unione Europea. La lettera europea è naturale, non basta questo per parlare di bocciatura, l'avete sentito, Renzi minimizza così la portata di questa lettera che è attesa dalla Commissione Europea sulla legge di stabilità, parlando di emblematico genere letterario che sta suscitando entusiasmo e passione da parte di noi dei media. Ma che valore ha in generale, che valore hanno questi richiami di Bruxelles nei confronti dei vari Paesi membri? Quali sono gli strumenti con cui le istituzioni di Bruxelles inviano le loro comunicazioni? Noi viviamo una sorta di subalternità culturale. Basta una mezza dichiarazione del portavoce, dell'aiutante, del sottosegretario della Commissione per avere i titoloni sui giornali: l'Europa avverte, l'Europa intima, l'Europa minaccia. È un atteggiamento che noi agevoliamo e valorizziamo. Già il fatto stesso del è arrivata la lettera dell'Europa, fa evocare chissà quali procedure o messaggi o minacce. Lettere, richiami, raccomandazioni, direttive o, se si preferisce, rilievi o semplici considerazioni, a seconda della loro intensità, sono gli strumenti attraverso i quali l'Europa parla ai 28 paesi. La lingua delle istituzioni europee, Commissione in primis, quella ufficiale si intende, poi ci sono i sorrisetti, le battute, i rumors. Ma né diktat né minacce mette le mani avanti Renzi nella sua informativa in Parlamento, solo un processo naturale che va dunque sdrammatizzato. Fatto sta però che Bruxelles ci guarda e ci indica la rotta e spesso la condiziona pesantemente. Ce lo chiede l'Europa, è il mantra che ripetono i nostri politici, a volte a onor del vero, per giustificare misure impopolari. Nel mirino della UE innanzitutto le manovre economiche, i vincoli di bilancio, l'osservanza del rapporto deficit-PIL da tenere sotto la soglia del 3%. Dallo scorso anno la Commissione Europea ha anche rafforzato i suoi poteri di vigilanza, potendo valutare e commentare un testo di bilancio anche prima della sua discussione in Parlamento. Ma sotto la lente di ingrandimento della UE, come sappiamo, c'è anche dell'altro: dall'ambiente alla sanità, dai diritti dei consumatori alla situazione carceraria, dalla gestione dei rifiuti ai debiti della pubblica amministrazione, dai disabili ai trasporti. Sono tante le raccomandazioni e le direttive per indirizzare la politica degli stati e tante quelle disattese, con conseguenti procedure di infrazione che possono arrivare fino alla condanna della Corte di Giustizia per chiedere il rispetto delle leggi comunitarie. E l'Italia purtroppo detiene il record. A fine 2013 erano 119 procedimenti aperti che hanno portato il nostro paese nel gradino più alto della classifica. Seconda posizione invece per numero di cause pendenti alla Corte di Giustizia. È dell'ambiente a fare la parte del leone: nel 30% dei casi nel mirino sono finiti il trattamento delle acque, le discariche, la gestione dei rifiuti, la disciplina della caccia, l'inquinamento acustico atmosferico. E poi ci sono le bacchettate su ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, procedura oggi di fatto chiusa, sulla scarsa considerazione considerazione dei disabili nei luoghi di lavoro, in tema di ripartizione di compiti, di strutture, di attrezzature, sul sovraffollamento delle carceri, emergenza sulla quale si sono sprecati proclami e promesse da parte di ministri e politici, fino ad arrivare a pochi giorni fa alla nuova iniziativa della Commissione sul caso dell'Ilva di Taranto con l'invio di un parere motivato, seconda fase della procedura di infrazione già aperta a suo tempo perché l'Italia non avrebbe fatto abbastanza per garantire il rispetto degli impegni assunti dall'Ilva. L'Europa dunque ci osserva e ci richiama all'ordine costantemente. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ora aggiorniamo chi viaggia, poi cerchiamo di raggiungere un senatore di Forza Italia per capire che cosa è stato detto nelle segrete stanze di Palazzo Giustiniani, e poi cercheremo anche di capire le previsioni, visto che probabilmente da domani arriva il freddo, arriva uno scampolo d'inverno, anzi l'inizio dell'inverno, per capire anche che stagione ci aspetta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ecco, adesso vi riassumo brevissimamente le notizie, perché abbiamo ancora diverse cose di cui parlare. L'incubo terrorismo in Canada, vi dicevo questo, il Parlamento sotto attacco, un comando in azione, uccise un soldato e un assalitore. Abbiamo avuto qui l'ambasciatore poco fa, italiano in Canada. La manovra bonus per le neomamme, solo i redditi più bassi, dicevano alcuni ascoltatori. Precisiamo che l'ISE deve essere di 36.000, non di 30.000, nel senso, qui la notizia è che si abbassa da 90.000 a 30.000, però l'ISE è l'indicatore della situazione economica equivalente, che è meno di quello che poi deve essere il reddito effettivo, insomma una questione di calcoli, di numeri. Renzi dice l'Europa abbia più coraggio, resterà Cenerento, la commissione Juncker oggi parte, il nuovo esecutivo. E poi l'Italia sferzata dal vento e il calcio, con la Juventus che per ora sta perdendo per 0-1 contro l'Olympiakos in Champions. E ora cerchiamo di capire che cosa è stato detto oggi a Palazzo Giustiniani. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha riunito i senatori per parlare di diversi temi, ma sembra che sia sicuramente emerso un fatto, che ha detto: uscire di scena non ci penso proprio, è impensabile dopo tutto ciò che ho fatto. Chiedo conferma al senatore Lucio Malan, che saluto, di Forza Italia. Buonasera, senatore. Buonasera. È vero, ha detto così, non avevamo dubbi, però mi sembra che non ci potessero essere dubbi su questo, Malan, no? Effettivamente, però l'ha detto in modo molto chiaro e convincente, non ha nessuna intenzione di lasciar stare né Forza Italia né la politica. È in campo molto battagliero, molto focalizzato sull'obiettivo di costruire, di rilanciare Forza Italia, costituire una coalizione di centrodestra e prepararsi per vincere le prossime elezioni. Quando potrebbero essere queste prossime elezioni, Malan, secondo lei? Io da tanti elementi ho il convincimento che Renzi vorrebbe andare a votare il più presto possibile, perché fa una legge di stabilità che alla distanza non regge, forse addirittura non regge neanche alla partenza, ma nella sua idea penso che regga qualche mese, poi dopo la verità viene a galla e si vede che le riduzioni di tasse sono aumenti di altre tasse, l'Europa ci dirà che queste cose non si possono fare, i miliardi della lotta all'evasione fiscale non potranno assolutamente essere quelli lì, e perciò salterà fuori che, ma dunque lui vorrebbe prima che la verità venga a galla andare a votare, questa è un'impressione forte. Le dirò che oggi il presidente Berlusconi ha espresso un convincimento contrario, che invece le elezioni siano lontane. Io vedremo, di solito ha ragione lui. Per Berlusconi sono lontane. Senta, alla fine questo patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi continua a reggere? Ma certo che il patto viene messo a serio rischio da queste continue richieste da parte di Renzi di modificare questo e quello. L'ultima è quella del premio al partito anziché alla lista, alla coalizione, no? Al partito che raggiunge i maggiori voti. Allora, qualunque cosa può essere di per sé nelle leggi elettorali, è difficile che ci siano le cose che sono di per sé sbagliate, negative, però è chiaro che una cosa che non va bene è questo continuo cambiamento continuo o andamento ondivago di Renzi e del PD su questi temi, è certo che è difficile andare d'accordo con uno che cambia idea tutti i giorni. Mi dico un'ultima cosa, Malan, a proposito di cambiamenti di idee, qualcuno dice l'influenza di Francesca Pascale, questa apertura così forte sulle unioni gay di Berlusconi e di molti esponenti di Forza Italia, cosa è dovuta? Ma io immagino a convincimenti personali. Devo anche dire che è stata spettacolare per il fatto che è venuto Vladimir Luxuria a casa di Berlusconi. Ricordiamo che Vladimir Luxuria non molte legislature fa è stato un deputato di Rifondazione Comunista, per cui anche, come dire, come area politica non è proprio quella a cui è abituato Berlusconi. Però una cosa è parlare anche con Vladimir Luxuria, che è sicuramente, diciamo, tra i più appariscenti dei promotori di determinate innovazioni, ma la posizione che è ribadita da parecchi esponenti di Forza Italia, cioè di essere a favore del riconoscimento di alcuni diritti alle coppie, al di fuori delle coppie uomo-donna sposate, è una cosa che avevamo già raggiunto la scorsa legislatura, e tuttora mi risulta che la posizione di tutti, certamente la mia, è contrarietà al matrimonio per le coppie dello stesso sesso o a discipline che siano equivalenti al matrimonio, magari con un altro nome, e dunque anche contrarietà alle adozioni. Grazie senatore Lucio Malan. Grazie. Buon lavoro. Grazie, buona serata. Invece parliamo di cose molto, diciamo così, pratiche che ci toccano da vicino, come il vento, come il freddo, come il cattivo tempo che probabilmente sta arrivando. Chiedo conferma, ma vorrei essere smentita. Paolo Corazon, meteorologo di 3B Meteo. Buonasera Corazon. Buonasera. Roberto. No, non ho nulla da smentire, purtroppo arriva l'autunno, in realtà non è proprio inverno quello che sta per arrivare, anzi quello che già è in parte arrivato. Però sicuramente ci attendono condizioni meteorologiche più autunnali nelle prossime giornate. Ora c'è anche un gran parlare su prima l'uragano Gonzalo e lui. Adesso e si parla lui. di Attila che è abbastanza inquietante, no? Come nome. Allora io proprio su questo vi rubo un minuto, perché in realtà mentre il nome Gonzalo è un nome che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha dato a un uragano che dai Caraibi poi si è rispostato verso l'Europa, invece il nome Attila è un nomignolo inventato di sana pianta da un centro meteorologico italiano, ma non ha nessun fondamento scientifico assolutamente, ma è solo puramente un'idea mediatica per attirare l'attenzione. È una male perturbazione forte, violenta, ma Attila è proprio un nomignolo così inventato. I meteorologi non sono molto favorevoli a questa nuova moda. Ogni tanto qualcuno ci butta lì un po' di fantasia, di nomi ne abbiamo sentiti tantissimi, soprattutto nell'ultimo anno. Quindi praticamente allora si passa alla stagione dell'autunno, e i prossimi giorni come saranno, Paolo Corazon? Sì, allora guarda, la questione è che comunque avremo in tutta Italia un netto calo delle temperature, già lo stiamo sentendo sulla nostra pelle, prossime giornate aria più frizzantina, soprattutto la notte al mattino, ma in realtà anche le temperature diurne sono previste in netta diminuzione, ma non è nulla di eccezionale, nel senso che nei giorni scorsi faceva ancora parecchio caldo, ora ci riportiamo su valori un po' più consoni per la fine di ottobre, magari in alcuni casi leggermente sotto la media nell'immediato, però nulla di eccezionale. Però avremo anche condizioni di marcato maltempo, questo sì, al centro-sud. Tra domani e dopo, regioni del Medio Adriatico e regioni meridionali potranno avere piogge abbondanti, venti molto forti, mari in burrasca, quindi sì, effettivamente una perturbazione forte che porta un forte cambiamento. Ma l'Italia in realtà nel periodo autunnale non è nuova a queste incursioni di aria fredda. È un po' l'autunno che inizia a farsi sentire. Diciamo è che l'estate così. Si era fatta sentire poco, soprattutto al nord, Paolo. Ma senti, è vero che potete prevedere, adesso ci rimane un minuto, minuto per parlare anche la stagione un po' lunga scadenza, per esempio che inverno avremo, si possono dire altre cose. Si riescono a dare delle tendenze in realtà, quindi anche quando si sente in giro sarà l'inverno più gelido degli ultimi 1000 anni, non credetemi, perché in realtà sono tutte anche queste bufale fatte per attirare l'attenzione. Noi di Trebimento abbiamo fatto un attento studio sulla prossima stagione invernale, che sicuramente sarà più movimentata della scorsa. Non so se ricordi, abbiamo avuto un inverno, quello scorso, anche molto mite in realtà. Sì, tutto sommato, sì. Se questo inverno invece sarà più invernale, diciamo così, però non sarà neanche una cosa così tragica che probabilmente ricorderemo per chissà quanto per la sua violenza. Avremo delle nevicate nelle zone giuste, in montagna, ogni tanto in pianura a nord, insomma un inverno che farà l'inverno, eccolo. Bene. Diciamo così. Fa il suo ruolo. Grazie Paolo Corazon, buon tempo. Grazie, buon tempo a te. Grazie. Noi ancora pochi istanti, sì, ci sentiamo tra poco.